Now, topic of our demo time today is the knowledge of the fast arising and passing away of formations. And so when retreatants practice for a certain period of time, some of you practice for 10 days in a row, some even for 20 days, then things change, and gradually one's wisdom also deepens. Quindi il discorso di questa sera riguarderà la conoscenza del veloce sorgere e svanire degli oggetti o dei fenomeni, e alcuni di voi sono qui da 10 giorni, altri da ancora più a lungo, e quindi capita che appunto quando si pratica in maniera intensiva per un certo periodo la propria pratica si approfondisce, così come anche la saggezza, e cominciano a vedersi le cose in modo diverso. Now, the Pali technical term for this particular insight knowledge is given as Uddeya Beya Jnana. Secondo Uddeya Beya Jnana è la parola in Pali che si riferisce proprio a questa particolare conoscenza. And here the Pali term Jnana, it means knowledge or insight knowledge, and the term Uddeya Beya then can be broken up into in one way two parts, another way even four parts, namely as Uddeya is one part and Beya is a second part. Sì, quindi Jnana significa conoscenza o insight, intuizione profonda, invece Uddeya Beya può essere suddiviso in due parti o addirittura in quattro parti. La prima suddivisione è in Uddeya e Beya. And so, then that first part, Uddeya, it can be broken up into Ud and Eya, and the second part can be further broken up into Beya and Eya. Quindi la prima parte può essere suddivisa ancora in Ud, Eya, e la seconda parte in Be e Eya. And so this Aya in both cases is Pali for to go. And it's related to the verb I. Quindi questo Eya, che è presente in entrambe queste due parti, corrisponde alla parola in Pali per andare, e quindi la radice verbale è I. So, to go. Ud means to go in an upward direction, or to go out, to go forth. Eya means to go, so to go forth in an upward direction, an outward direction. So in other words, to arise. Ud, quindi, invece il prefisso ud vuol dire andare in una direzione, verso l'alto oppure verso l'esterno. Quindi, mettendo insieme ud eya, il significato è andare verso l'alto o verso l'esterno. And thus to arise. E quindi il sorgere. And then when we take the second part, namely Beya, then again we have this Eya, which means to go, and Beya is a prefix, which then means asunder, something is breaking asunder, breaking up, apart. Invece la seconda parola, la seconda parte, quindi Beya, quindi Ya è sempre andare, questo Bei, quindi il prefisso Bia significa invece il rompersi, il frantumarsi, il ridursi in pezzi, So something, breaks up, something gets destroyed, and suddenly, in other words, suddenly something falls. Quindi qualcosa che si rompe, che si distrugge, in altre parole qualcosa che cade, che decade. And suddenly, hence, in the English language, this certain insight knowledge, or this Pali term, then has been translated as the knowledge of the arising and passing away, or the knowledge of appearance and disappearance. E quindi per questo motivo in inglese o in italiano in questo caso questa particolare conoscenza è stata tradotta come la conoscenza del sorgere e del svanire degli oggetti o dell'apparire e svanire degli oggetti. And this particular insight knowledge is of two faces, namely a tender face and a mature face. And certainly the tender phase, to some extent, we alluded to already in an earlier Dhamma talk, when the talk was on making the transition from difficult physical formations to more pleasant physical sensations, and from difficult mental states to more beautiful mental states. Quindi questa particolare conoscenza è suddivisa in due fasi, la fase cosiddetta tenera e poi la fase matura. E riguardo alla fase tenera abbiamo già detto qualcosa precedentemente quando abbiamo parlato di quella transizione che può avvenire tra gli stati fisici difficili, i fenomeni fisici difficili che diventano, si trasformano in stati fisici belli, diciamo, meno difficili, e la transizione tra gli stati mentali difficili e gli stati mentali belli. No. What characterizes this tender stage of the knowledge of fast arising and passing of formations are the so-called 10 imperfections of insight. And those are the following, namely illumination, and certainly then keen knowledge, then joy, and certainly then we have tranquility, happiness. Yes. Dunque, quello che caratterizza la prima fase di questa conoscenza, quindi quella cosiddetta tenera, sono quei dieci stati mentali che abbiamo chiamato le 10 imperfezioni dell'insight, e sono le seguenti. Il primo è l'illuminazione, poi c'è una capacità molto, come dire, acuta di percepire l'oggetto, poi c'è la gioia, la tranquillità e la felicità, sono i primi cinque. And certainly then, the next five are a sense of determined faith, and certainly this then is followed by a strong energy or effort, and certainly then we have strong mindfulness and certainly equanimity, and the last one is certainly attachment. Gli altri cinque sono una forte fede seguita da uno energia o sforzo. L'ottavo è una consapevolezza sviluppata, poi c'è l'equanimità come la nona, e l'ultimo è questo attaccamento. And certainly it's this attachment that out of the 10 imperfections is certainly the only unwholesome mental states. The others are basically wholesome. E di questi 10, l'ultimo, l'attaccamento, è l'unico che non è salutare. Gli altri 9 sono fondamentalmente degli stati salutari, benefici. And certainly then, as explained already, some time ago in a previous Dhamma talk, there are certain potential dangers that go along with these imperfections of insight. And the first one is craving. So having experienced, let's say, calmness in one sitting, enjoying it greatly, and suddenly then the next sitting wishing or hoping to re-experience suddenly that sudden calmness. Quindi, come abbiamo già detto, ci sono dei pericoli insiti in questa particolare esperienza, e uno è quello del desiderio, della brama. Perché avendo per esempio sperimentato uno stato di calma nella mente, allora nasce il desiderio di provare quella stessa calma, di avere la stessa esperienza. No, the second potential danger is certainly that of pride and certain conceit. So, based on one's certain experiences, which doesn't seem quite certain outstanding, one as a meditator, one then might certainly think, one might, one gets carried away, might, one might think, one is the best meditator in this group, or maybe even or have experiences better than a teacher might have. E quindi l'altro pericolo potenziale è che un meditante, avendo fatto queste esperienze così straordinarie, in un certo senso, potrebbe sviluppare una forma di orgoglio, di presunzione, potrebbe pensare di essere il miglior meditante nel gruppo o addirittura di aver fatto delle esperienze ancora più importanti di quelle dell'insegnante. And then the third potential danger is that of wrong view. And so having all these wonderful experiences, starting with illumination, so seeing various signs of illumination phenomena or light related phenomena, and then thinking, this has some, must have something to do with enlightenment, and the Dhamma has been gained by me, and then one might go back home thinking one has finished the work. Quindi un altro pericolo può essere quello di pensare che questi fenomeni, per esempio il primo di questi 10 contaminazioni dell'insight, siano delle cose particolarmente straordinarie. Per esempio, il primo è questa cosiddetta illuminazione, brillantezza, queste esperienze con la luce. Allora uno può pensare, può confondere questa esperienza con l'illuminazione stessa, e quindi si crea una visione errata, e uno può addirittura pensare di aver già terminato il suo lavoro e quindi tornare a casa come se tutto fosse già sviluppato completamente. And so, this potential is real. For some people it really happens. There was many years ago, many decades or a few decades ago, there was a foreign retreatant who had experimented with drugs to some extent, and then eventually decided to do a retreat in Burma at the Mahasi Center with Venerable Sadhu Pandita Biwamsa. When he reached this point, he thought this is it, and he went back home. E questo è un pericolo reale, questo della visione errata, e tant'è che c'è un'esperienza di un meditante straniero che è andato a fare un ritiro intensivo in Birmania con il venerabile Upandita, e aveva già fatto precedentemente delle esperienze di tossicodipendenza, insomma aveva già usato delle sostanze, e poi ha deciso di dedicarsi alla pratica. Quando è arrivato in questa fase particolare della pratica, aveva avuto queste esperienze straordinarie e era convinto appunto di aver raggiunto il massimo delle esperienze possibili, e a quel punto ha lasciato tutto e è tornato a casa. This man, then for a long period of time, thought that he had suddenly become a stream enterer, and it took quite a while for him to realize that this was not the case, and then finally he went back to the Vipassana practice and apparently then gained the Dhamma. E quindi questa persona per molto tempo ha ritenuto di avere raggiunto il primo stadio di illuminazione, di essere entrato tra coloro che entrano nella corrente, e ci è voluto un po' di tempo perché si convincesse che in realtà non era arrivato a quel punto, a quel livello, e pare che poi sia tornato alla pratica della Vipassana, poi col tempo ha raggiunto anche lui ha il Dhamma. So with these 10 imperfections of insight, we have to be really careful that we don't get carried away by them and that we don't indulge in them and don't have a party, so to speak. Quindi con queste 10 imperfezioni dell'insight dobbiamo stare molto attenti a non farci intrappolare, non farci prendere troppo dall'entusiasmo, detto in altri termini, non festeggiare con queste esperienze. And so, those pleasant experiences are just again conditioned phenomena, and they're not going to last forever. Now, there was one exceptional case, and allow me to share this with you. A retreatant again from a foreign country who came to Burma, and then, after maybe 2 weeks of practice or so, he started experiencing these imperfections of insight. And so at the time I was coaching some of the foreign yogis, and he told me he didn't want to go any further than this, because he knew already if he were to go further, sooner or later the dukkha would come back. And he said, that's it. Okay. Quindi appunto provate a non farsi prendere da queste esperienze, vederle solo come dei fenomeni condizionati che sorgono e passano, ma nulla più. Però c'è un'eccezione, ed è questo un altro meditante che è andato a fare un ritiro in Birmania. A quel tempo Vivekananda stava facendo da assistente con i meditanti stranieri. E un particolare meditante gli ha detto, è arrivato a questa fase della pratica, ha detto, io mi fermo qui, non voglio andare oltre, perché so cosa mi aspetta, e cioè nelle fasi successive ci sono tutte le esperienze di dukkha e di sofferenza. Allora questo meditante ha detto, no, ma io mi accontento e rimango qui. So, now, the Visuddhi Magga, which is the path of purification, in its explanation of this particular insight knowledge, then ask a really valuable question. Why, after having gained or experienced the tender phase of this knowledge of the fast arising passing way of formations, why does one have to go through this mature phase? What's the reason behind it? It could be just a waste of time. Quindi Visuddhi Magga, che è quel commentario che si chiama il manuale, cioè il sentiero della purificazione, nel descrivere questa fase della pratica pone una domanda molto interessante, e cioè dice, ma perché uno deve andare oltre questa fase tenera di questo particolare insight? Perché deve arrivare alla maturazione? Non potrebbe essere solo una perdita di tempo? And then the answer given is as follows, namely, to observe the three universal characteristics, and this time free from the impediments of those 10 imperfections of insight. E quindi lo spiega così, cioè il motivo è quello di poter osservare di nuovo le tre caratteristiche universali dell'esistenza, ma questa volta senza quell'impedimento che è rappresentato dalle 10 imperfezioni. So to explain this a bit further, early on during the earlier insight knowledge, a retreatant typically will see an object arising, will see an object lasting for a while, and will see it disappearing. So the aspect of anicca, of impermanence, is very clear with this. It keeps changing. Quindi per spiegare un po' meglio questo stadio della pratica, questa fase, precedentemente un meditante vede chiaramente un oggetto che sorge, rimane per un certo periodo e poi sparisce. E quindi l'esperienza di anicca, cioè del cambiamento, dell'impermanenza, è molto chiara. No, when those imperfections of insight come along, then, let's say calmness is there, one gets so, the calmness is such a wonderful experience, that one gets extremely attached to it, and it may last for a long period of time. It can last many hours, sometimes even several days, and then it appears as if this calmness is permanent. Mm-hmm. And with this satnya, then naturally, the universal characteristic of anicca no longer, at least temporarily, doesn't make much sense. E poi viene sviluppata questa calma che a volte può durare molto tempo, delle ore, addirittura dei giorni interi. Allora si ha l'impressione che questa calma sia permanente, che non cambi, che rimanga sempre lì. E quindi a questo punto la caratteristica di anicca, cioè del cambiamento, non è più così evidente, viene persa. No, so, in order to experience those certain three universal characteristics in a, so to speak, pure way, without the influence of the imperfections of insight, one needs then to go ahead. Quindi per vedere meglio queste tre caratteristiche senza l'influenza delle 10 imperfezioni, uno deve allora andare avanti con la pratica. During this certain phase with the imperfections, either a teacher has to point out again and again and again, please don't get attached, be careful with pride and conceit, be careful with wrong view, and eventually the retreatant will get it, or else if a retreatant is quite skillful, then he or she will understand naturally and then do what is needed, namely just to be mindful and not get attached to any of these experiences. Quindi ci sono, possono essere due casi, in questa, due possibilità in questa fase: o si ha un insegnante, una guida che continuamente mette in guardia rispetto al rimanere impigliati in questa fase, in queste esperienze, e quindi come dire, sottolinea i pericoli che ci possono essere dell'attaccamento, dell'orgoglio, della visione errata, e quindi per volta se ne esce e si va avanti, oppure può essere che un meditante anche da solo sia abbastanza abile da vedere i pericoli e quindi uscirne da solo praticamente. No, a definition from the Patisamhita Magga, the path of discrimination, gives us a good idea what this sadhana knowledge is all about. It says the wisdom in contemplating the change in the present phenomena is the knowledge of the arising and passing away. Quindi Patisamhita Magga, sentiero della discriminazione, dà una buona definizione di questa fase, e cioè dice che appunto la conoscenza del sorgere e svanire degli oggetti è la saggezza che deriva dal vedere come i fenomeni cambiano, il cambiamento nei fenomeni, nel presente. Vedere il cambiamento nei fenomeni presenti. The word present has a lot of footnote meaning, because there's the three times. We've got certain phenomena of the past, we've got phenomena of the present, we've got phenomena of the future. And earlier on, the emphasis was on all three, past, present, and future. Now, during this particular phase in the practice, the mind has come much more into the present moment, and it deals mostly with presently arising objects and presently disappearing objects. Quindi la parola presente è molto importante in questa fase, perché precedentemente c'era, nell'osservare un fenomeno, c'era il passato, il presente e il futuro, ma qui la mente è veramente focalizzata nell'oggetto che sorge nel presente e l'oggetto che se ne va, svanisce nel presente. And so the term change also is full of significance, because this is really what is happening. One sees as an object arises and then disappears in the next moment, that is clearly a case of change, of quick, of rapid change. E l'altra parola chiave è proprio il cambiamento, perché uno vede molto molto chiaramente come un oggetto appunto sorga e poi un attimo dopo svanisca. Quindi questa è un'esperienza molto diretta e molto precisa di ciò che vuol dire anicca, il cambiamento. And so, what happens in this particular insight knowledge is quite interesting. If we just look at the mind itself, earlier on, the mindfulness was somewhat slow, and observation of objects was also at a slow pace. So an object would arise, let's say rising movement of the abdomen would take, would occur, and suddenly then one would observe it suddenly for quite a while, take a look, close look here and there and so on. So quite suddenly, quite pleasant, and then the object would disappear. But in this phase of the practice, things are moving much faster, so the mind is working much faster, and as a result of this, it's also seeing more details with regard to objects, namely their quick coming and suddenly going. In questa fase cambia anche la qualità della consapevolezza, in quanto precedentemente era abbastanza lenta, cioè si osservava l'addome che si alzava, che rimaneva lì un po', poi si abbassava e si vedeva il cambiamento in tutto il processo, però in maniera abbastanza tranquilla, abbastanza lenta. Invece in questa fase la mente diventa molto più veloce e di conseguenza anche gli oggetti sono più veloci, si vedono più dettagli e quindi tutto avviene molto più rapidamente, la consapevolezza stessa si velocizza. There's certainly yet another aspect that comes into play, namely the experience of the 10 imperfections of insight is usually a rewarding experience. Retreatants are happy with this. They feel encouraged, and they feel encouraged to go on, to move further ahead. And with this, there's a renewed certain determination to continue with the practice. C'è un'altra cosa da dire, che quando si giunge a questa fase delle 10 imperfezioni dell'insight, il meditante di solito è molto incoraggiato a continuare, come se fosse una sorta di ricompensa nella pratica, e quindi c'è una rinnovata energia, un rinnovato entusiasmo, un desiderio di andare avanti con la pratica. And so we can even say that a retreatant who has come this far in the practice is likely to go further and will have an intention to complete the Dhamma practice. E possiamo anche dire che un meditante che è arrivato a questo punto della pratica difficilmente torna indietro e come dire sarà quasi sicuramente convinto e determinato ad andare fino in fondo, arrivare fino alla fine della propria pratica. This knowledge of the fast arising passing of formations can be seen as a further development in terms of one's understanding of impermanence. So during the earlier insight knowledge, as mentioned, the retreatant sees an object arising, sees it, how it changes, lasts, and then passes away. And this happens, this takes certainly some time. Whereas in this phase here, one also sees the impermanence, but in a much faster way. So an object comes up, and the next moment it's gone. Quindi c'è anche uno sviluppo nella propria conoscenza di questa caratteristica dell'impermanenza. Nel senso che prima si era già fatta l'esperienza, perché si era visto l'oggetto che sorgeva, restava per un po' e poi andava via. In questa fase si vede lo stesso processo, però tutto avviene molto più rapidamente, quindi è come se ci fosse uno sviluppo di questa conoscenza particolare. So during the third insight knowledge, all three universal characteristics come up for the first time in a clear manner. But still, it's just a rough getting to know them. Now, in the fourth insight knowledge, one's understanding of these three universal characteristics gets deepened. And so in this regard, it's important that one understands that which is certainly impermanent and the characteristic of impermanence, that which is suffering and the characteristic of suffering, and that which is lacking a self and certainly then its characteristic. Quindi le tre caratteristiche universali vengono già conosciute nel terzo insight, però in maniera così un pochino grossolana, approssimativa, mentre invece in questo quarto insight la loro conoscenza più approfondita, più dettagliata, ed è molto importante qui che il meditante conosca ciò che contiene, diciamo, l'impermanenza e le caratteristiche dell'impermanenza, ciò che contiene la sofferenza e le caratteristiche della sofferenza, ciò che contiene il non sé e le caratteristiche del non sé. So the, you know, the expression that which is impermanent, that which is suffering and so on, you know, this is it with reference to the five aggregates. So the five aggregates are subject to anicca, dukkha and anatta. E quindi questo che si è detto, cioè ciò che è impermanente, ciò che è sofferenza, eccetera, si riferisce ai cinque aggregati. Quindi è importante riconoscere che ognuno dei cinque aggregati ha queste tre caratteristiche. And so, then, in terms of the characteristic of impermanence, this is this refers to the mode of the arising and passing away of formation. So just the fact that objects have a tendency to arise and to pass away. Quindi per quanto riguarda la caratteristica dell'impermanenza, in questo particolare insight viene vista in questa modalità, come la caratteristica dell'oggetto di velocemente sorgere e passare. And suddenly, the characteristic of suffering is that certain objects are continually oppressed again by the arising and passing. Invece per quanto riguarda la caratteristica di dukkha, dell'insoddisfazione o sofferenza, questo riguarda il fatto che gli oggetti sono oppressi proprio perché sono soggetti a questo rapido sorgere e svanire. And certainly the characteristic of non-self, of anatta, is simply that objects are not under our control. E la caratteristica di anatta, del non sé, si vede dal fatto che gli oggetti sono assolutamente fuori dal nostro controllo. No. So during this particular insight net knowledge, one does certainly experience formations in the light of anicca, dukkha and anatta. And this usually retreatants first experience in terms of the rising and falling movement of the abdomen. One realizes it's not one continuous movement, but rather a segmented movement. And then one might certainly even find that at times the one rising movement is highly segmented, so there are many short, quick segments to one movement. At other times there could be less segments, but suddenly somewhat the experience is more forceful, more unpleasant. And then there might also be the experience of very few segments, but the segments are longer, more gentle, and so on. Quindi, in altre parole, ogni fenomeno è visto attraverso, cioè con la luce delle tre caratteristiche universali. E questo spesso viene evidenziato, come dire, viene esperito in questa fase con l'osservazione dell'addome che si alza e si abbassa, e quindi in un solo movimento dell'alzarsi dell'addome si vede che ci sono varie parti, insomma è frammentato, possono esserci tante piccole parti, sezioni, diciamo, che velocemente sorgono e passano, oppure può essere suddiviso in meno parti, però ciascuna delle quali può essere un pochino più forzata, o in alternativa possono essere ancora meno queste sezioni e possono essere un pochino più fluide, un po' più morbide. Now, once one has discovered these changes in the rising falling movement of the abdomen itself, one might then see similar phenomena also with regard to other objects. So this could be a pain, or it could be hardness, or it could be during the process of, let's say, bending one's arm. Even that movement is not a continuous movement, but rather a movement or a segmented movement. Quindi una volta che il meditante ha fatto questa esperienza del cambiamento, di questa frammentazione dell'addome che si alza e si abbassa, poi vede la stessa caratteristica anche in altri fenomeni, in altri oggetti, come può essere un dolore, una sensazione del corpo, o anche per esempio il movimento di un arto, il semplice piegarsi di un braccio. Allora anche questo può essere visto come un movimento molto molto segmentato, ecco, frammentato. And so the same thing then also goes for other objects, any kind of object. E questo poi vale per altri oggetti, per qualsiasi tipo di oggetto. And so it's important to see this phenomenon of objects quickly arising and quickly passing away as frequently as possible with the whole range of formations. Even one can see it even with the seeing process. So when looking at an object, it's not just an ordinary continuous seeing, but certainly the object seems to be, or the seeing process seems to be flickering. With the hearing, it could be just the same thing. With the smelling, the same thing, and so on and so forth. Sì, è molto importante fare questa esperienza di questo rapido sorgere e svanire dell'oggetto in tutti, cioè riferito a tutti i fenomeni nel campo dell'esperienza. Quindi può essere anche, per esempio, il processo del vedere. Quindi si può verificare che non è così lineare come era precedentemente, ma anche l'oggetto visivo è come se fosse un pochino traballante, quindi il processo visivo non fosse più così fisso. Oppure la stessa cosa può accadere con un suono, che si vede di nuovo come fosse diviso in tanti piccoli pezzi, tante piccole onde, diciamo. When it comes to the impermanence, it is usually concealed by continuity. So in the case of the rising movement of the abdomen, we experience it as one continuous movement. And so not realizing that actually it's not one continuous movement, but rather many tiny little arising or segments. Che l'impermanenza spesso è nascosta dal concetto che abbiamo di continuità. E quindi, per esempio, l'alzarsi, il movimento di alzarsi e abbassarsi dell'addome sembra un movimento continuo. In realtà non è così. Se lo guardiamo molto attentamente, vediamo che è composto da tanti segmenti. No. The characteristic of suffering is not right away obvious, and this too is concealed in a certain way, and this time it's concealed by frequent and frequent change of posture. So as soon as some pain arises, discomfort is there, one wants to get rid of it as quickly as possible and changes the posture, and thus one is not exposing oneself to the dukkha and is not seeing it accordingly. Questa particolare fase dukkha non è così evidente, la sofferenza. Comunque anche dukkha viene in qualche modo nascosto, non reso troppo apparente dal fatto che facciamo continuamente dei movimenti, dei micro movimenti per cambiare la postura, e quindi appena c'è una situazione di sofferenza nel corpo, di disagio, allora con il cambiamento appunto della posizione cerchiamo di nasconderlo, e quindi non viene a essere in primo piano, non viene messo in luce. No, again, the characteristic of anatta is not necessarily discovered or seen right away. And so this too may be covered up by a certain thing, namely by compactness. And so compactness of objects appear to be compact when in fact they are not compact. Quindi anche Anatta non sembra così evidente in questa fase, e anche questa caratteristica del non sé viene coperta in qualche modo o nascosta dall'idea della compattezza, cioè gli oggetti sembrano essere compatti e nella realtà non sono così. In Sadhnisu, the texts are speaking of four types of Fatnu compactness, and they all make Khatnu sense. The first one is compactness as a continuity. Quindi i testi parlano di quattro tipi di compattezza, tutti hanno un loro senso. Il primo tipo di compattezza è quello della continuità. And so that is, as Sadhna explained, like continuity of Fatnu, rising movement, falling movement. E questo l'abbiamo già spiegato, come questa idea della continuità che c'è nel, per esempio, movimento dell'alzarsi e dell'abbassarsi dell'addome. And Sadhna, then, the second one is compactness as a mass. And Sadhna, so, then an object, or a mass of Fatnu sensations is Sadhna there, but one doesn't see the details of it. Il secondo tipo di compattezza è come una massa, quindi come se percepissimo una massa di sensazioni, ma in realtà non vediamo tutti i dettagli. Then again, there could be compactness as a function, namely that suddenly one assumes a certain function to an insight knowledge at such and such a point in the practice, usually this or that happens. And suddenly, so then, that function seems pretty permanent. And sooner or later in the practice, one comes to a point where this no longer holds true. And so, with this, then we have the breaking up of the compactness as a function. Poi c'è la compattezza come funzione, e questo si riferisce al fatto che un meditante può pensare che in una certa fase della pratica una certa funzione venga svolta. Però anche questo poi a un certo punto viene a disintegrarsi, insomma, non essere più così, essere visto come non più compatto, e quindi questo si riferisce alla compattezza come funzione. And suddenly we have compactness as an object, and so we focus our attention on a particular object like a pain, and it seems well defined. And when we go deeper into this object, then we realize it's rather fluid and cannot, and at times the clear definition of its borders falls away. So it was a compactness as an object. As an object. Mm. Quindi il quarto tipo di compattezza è la compattezza come oggetto. Questo significa che noi quando osserviamo un oggetto ci sembra ben definito, riusciamo a vederne i contorni e tutto quanto, però quando poi lo vediamo più da vicino ci rendiamo conto che in realtà non è così, non è così ben definito. Yeah. And so, then, for instance, it certainly might happen, and it's common among retreatants, that gradually, the contour, the shape, or the form of the abdomen starts suddenly breaking up, fading away. E a questo punto capita, e questo succede abbastanza spesso nei meditanti, di vedere che il contorno o i limiti, diciamo, dell'addome cominciano a cambiare e a dissolversi, non è più così ben definito come prima. Mm-hmm. Now, let me see, what else? Now, because this insight knowledge is of a particular importance, it's kind of like a halfway station on the way towards Satya Nibbana. And the Buddha has praised it in a Dhammapada verse as follows: the bhikkhuni and lay retreatant who goes into seclusion, whose mind is tranquil, who clearly perceives the Dhamma, experiences a joy that transcends that of ordinary men and women. Quindi questo particolare insight è molto importante ed è visto proprio come una tappa intermedia, una stazione intermedia sulla via verso il Nibbana, ed è stato anche in qualche modo elogiato questa particolare conoscenza dal Buddha, così come è riportato in un verso del Dhammapada. che dice il monaco o la monaca o il laico che va e si trova in un posto isolato, whose mind is tranquil, la cui mente è tranquilla, who clearly perceives the Dhamma, che chiaramente percepisce il Dhamma, experiences a joy which transcends that of ordinary men and women there. Fa esperienza di una gioia che trascende quella dell'uomo o della donna ordinaria. Now, there's still a few more points that need to be mentioned in or with regard to our this particular insight knowledge. Namely, one is that with the arising of an object, it is not that an object kind of gathers beforehand to then arise, so kind of like a gradual process, but out of the blue, suddenly an object arises. And again, it's not that an object disappears and then gradually breaks up, but all of a sudden it suddenly disappears. So there's a sudden arising, sudden disappearing. And in the Burmese language, this is nicely put as ku pie, ku pie. A ku means now, and so ku is just short for for a ku, and then pye means to arise, and then ku pye means to get destroyed, to break up, and so then disappearing. So now arising, now disappearing. Quindi un'altra cosa da dire rispetto a questo particolare insight è che l'oggetto non è che sorge così in maniera un po' graduale e poi si dissolve e si frantuma in maniera di nuovo così un po' per volta, ma sorge all'improvviso, come se fosse così sorto dal nulla, e allo stesso modo sparisce improvvisamente, come se fosse tagliato, come se cadesse tutto d'un tratto. E nella lingua birmana c'è un modo molto carino di definire questo fenomeno, così anche come suono, che è il ku pie, ku pie. Ku vuol dire adesso, pie sorgere, ku pie, pie. Ku pi, ku pie. Ah, ku pi adesso pie. Sorge, ku pie adesso svanisce. Quindi ku pi, ku pie, ku pi, ku pie. Okay. Adesso sorge, adesso svanisce. You should continue with Burmese studies. Yes. That's what I mean. Now, a practical point. If you said, do you have a ball pen or something? Okay. Oh, here, we can take this one. I've got something. Yeah. So, if you take this one here as one rising movement, then obviously, and then we can say there's a three parts to it: beginning phase, the middle phase, and then the ending phase. So previously, one clearly observed the whole thing from start to finish. But during this particular insight knowledge, a retreatant is usually only aware of the beginning of an object and the ending of an object. The middle portion is not that clear. Quindi se prendiamo per esempio questa come si chiama questo bastone, diciamo, per come se fosse il movimento dell'alzarsi dell'addome, di solito nelle fasi precedenti a queste noi siamo consapevoli della parte iniziale, della parte centrale, della parte finale di questo oggetto, diciamo, di questo fenomeno. Invece in questo quarto insight, in questa fase della pratica, è come se la mente fosse attenta solo all'inizio e alla fine del processo, la parte centrale come se non ci fosse, e questo dà l'idea della velocità. No. During this particular insight knowledge, especially with the imperfections of insight occurring during the tender phase, one thing can say that the so-called enlightenment factors are starting to show, starting to become quite well clear to a retreatant. Possiamo anche dire che in questa fase, con il superamento di questi 10 imperfezioni dell'insight, i 7 fattori dell'illuminazione cominciano a essere un pochino più presenti, cominciano a essere un po' più familiari cioè il meditante comincia a familiarizzare un po' con la loro presenza. And so obviously it doesn't mean that the enlightenment factors at this point are already fully developed. They are not, but at least they're showing up, and then over time with further practice they then mature more and more. Quindi non possiamo dire che questi sette fattori dell'illuminazione sono già pienamente sviluppati, però se non altro fanno la loro apparizione e con l'andare avanti della pratica poi diventeranno sempre più forti. Now it is also said with regard to this fourth insight knowledge that a retreatant who got this far in his or her practice, if he or she practices under a competent teacher and the student possesses the five limbs of striving, namely of faith and health and sincerity and energy and wisdom, then the person is likely to gain the Dhamma. E poi si dice che quando un meditante arriva in questa fase della pratica ed è seguito da un buon insegnante e possiede i cinque cosiddetti arti del striving, del progresso, chiamiamolo così, dello sforzo, che sono la fede, la buona salute, la sincerità, l'energia e la saggezza. Quindi se possiede queste cinque qualità ed è seguito da un buon insegnante, potrà raggiungere il Dhamma in questa vita. No, it is also not uncommon among retreatants during this phase to experience a sharpening of the senses. So one sees the seeing process becomes sharpened, the hearing becomes more sharpened, and the smelling, and so on and so forth. Inoltre, in questa fase i sensi, le facoltà dei sensi diventano molto più acute, diciamo, quindi si riesce a vedere molto più chiaramente, a sentire, a odorare, a gustare, insomma, tutti i sensi vengono sviluppati maggiormente. No. For a retreatant to get this far in the practice is important, as mentioned earlier on, because it's a rewarding experience, and with this then a determination to move further ahead arises. And so in a retreat, if one can get this far, then it's all, then it's pretty good. There's very good chances that a retreatant will be willing to continue with his or her practice. If one doesn't reach this point, and let's say ends one's sudden retreat in the knowledge of dukkha, then next time maybe an email comes from Pandit Chileji, please join for the next retreat, you might not feel like going. Una volta importante è che durante un ritiro un meditante raggiunga almeno questa fase nella pratica, perché come abbiamo detto prima è come una sorta di premio, uno si sente molto incoraggiato e sviluppa una forte determinazione ad andare avanti nella pratica. Se invece si dovesse fermare prima, per esempio in una fase in cui c'è un'esperienza molto forte di dukkha, allora è facile che se dovesse ricevere un'email da Pandit Chileji che lo invita a partecipare a un altro ritiro, questo meditante magari non se la sentirebbe tanto. However, our retreatants here are not like this, and certainly they feel much encouraged, and they will probably continue. Comunque i meditanti che sono presenti a questo ritiro non sono così, sono molto determinati, quindi probabilmente saranno incoraggiati a tornare. No. Also what happens during this phase in the practice is that one's mindfulness or one's noting will be pretty continuous and also without difficulty. So usually there's an ease of practice. Inoltre, in questa fase il notare, quindi l'essere, sviluppare questa consapevolezza che nota l'oggetto, diventa molto più facile, senza troppo sforzo, e quindi c'è un agio nella pratica. I mean, yet another practical detail is the following. objects or earlier on, an object would suddenly arise in one spot, one would observe it for a while, like a pain, and suddenly the pain would suddenly, let's say, spread out or move to a different place. Now, things are quite different. An object arises in one spot and it disappears in the same spot. Un'altra caratteristica di questa fase riguarda l'osservazione di un oggetto, come può essere per esempio una sensazione, un dolore. Precedentemente lo si vedeva per esempio in una parte del corpo, poi facilmente si spostava in un'altra parte del corpo. Invece in questa fase l'oggetto sorge e sparisce nello stesso punto. Now, another practical aspect that might be very helpful to recognize what is happening in one's own practice is, early on, objects tended to overlap. So while observing one object, while one object was going on, a new one would arise. And the attention would be pulled towards the new one while the old one is still going on. So that's the overlapping of objects. At this point in the practice, it's quite different. Now, objects clearly occur in a linear fashion. Only after the previous object has subsided, has passed away, does the next object arise. And there's no overlapping there. Un'altra caratteristica di questa fase è che precedentemente c'era una sorta di accavallamento delle esperienze, no? Degli oggetti. Quindi ne sorgeva uno, andava avanti per un certo periodo, poi ne sorgeva un secondo prima che il primo finisse in qualche modo. Quindi c'era una specie di, appunto, di susseguirsi, però per un certo periodo si accavallavano, cioè la fine del primo oggetto si accavallava con l'inizio del secondo. Invece in questa fase non succede così, l'esperienza è più lineare, cioè un secondo oggetto sorge solo quando il primo oggetto è completamente finito, insomma, si è concluso, ecco. Now, during this phase in the practice, the mind also tends to be pretty much in tune with the arising objects. So a physical object arises, and one's noting and observation of it will happen as a pair, concurrently. And then you have an object plus the noting and the observation of it occurring, arising as a pair, disappearing as a pair. And then the next object arising plus the noting is there, and then again, disappearing as a pair. Un'altra cosa che succede è che la mente che osserva è molto molto aderente al sorgere del fenomeno, dell'oggetto. Quindi appena un oggetto sorge, la mente è subito lì che in qualche modo lo coglie, ecco. E è come se accompagnasse l'oggetto, quindi sorgono insieme contemporaneamente, contestualmente, e poi spariscono contestualmente, di nuovo come una coppia, l'oggetto e la mente che lo osserva. Now, yet another interesting aspect is, early on in the practice, during the early days, an object would arise and it would typically take a while for the mind to be properly aimed at the object. Oftentimes the mind would even miss an object. At this point in the practice, it's not like this, but an object arises and right away one's attention goes to it without having to spend much time on aiming. Un altro aspetto interessante è che precedentemente nella pratica la mente era un pochino lenta a prendere la mira e a porre la sua attenzione sull'oggetto, a volte addirittura lo perdeva, non riusciva a mirarlo bene. Invece in questa fase la mente è molto più veloce e molto più precisa nel cogliere l'oggetto non appena esso sorge. So it's kind of like in target practice. This is an example or illustration given by Venerable Sayadaw Upandita. So at first, one needs to take time and aim at the object and then pull the trigger. But having trained a lot, then an object might come up and right away one hits the target. Un po' come quando uno si allena o si addestra nel tirassegno, no? Si dice così nel... E quindi inizialmente quando si sta allenando ci vuole un po' di tempo prima che possa prendere la mira e sparare e colpire nel segno. Invece, appunto, con la pratica poi colpisce l'obiettivo o l'oggetto che sorge nel momento in cui si presenta, quindi diventa proprio una cosa molto più immediata. Retreatants suddenly usually also experience that it's easy to sit to it, easy to keep one's sattva posture upright, sattva still for a longer period of time, and sattva then further more one can sit for sometimes 2 hours, sometimes even 3 hours non-stop. E inoltre in questa fase i meditanti riferiscono che è più facile sedersi per periodi più lunghi. Un meditante potrebbe sedersi anche per 2 o 3 ore senza particolari difficoltà. And so, with wandering mind, or with regard to wandering mind, there's no problem there. Either when a thought arises, immediately the mind goes to it, and on the spot it disappears. E anche per quanto riguarda la mente che divaga, in questa fase non ci sono grossi problemi. Sembra che la mente riesca subito a cogliere il pensiero quando sorge e immediatamente sparisce. So quite the characteristics of this particular insight knowledge as well as its benefits are quite extraordinary. And therefore, and probably what I've mentioned is just a bit, or it's not everything, so there would be or there's more to it. Quindi le caratteristiche, così come i benefici di questo particolare insight, sono straordinari, e può darsi che, anzi sicuramente, ce ne sono molti di più che non sono stati menzionati. And certainly the Buddha has spoken a verse with regard to this knowledge of the arising and passing of formations, and he says, better than 100 years in the life of a person who does not perceive the arising and passing of formations is just a single day in the life of a person who sees the arising and passing of formations. Proprio riguardo di questo di questa conoscenza, di questa fase della pratica, il Buddha dice è meglio è meglio anche un solo giorno di un meditante che riesce a vedere veloce sorgere e svanire degli oggetti, piuttosto che 100 anni nella vita di una persona che non riesce a cogliere questo aspetto del veloce sorgere e sparire degli oggetti. And certainly so, may the experience of this knowledge of the fast arising and passing of formations inspire you to continue with your meditation practice, and may it ultimately lead to the realization of the peace of Nibbana during this retreat or some retreat in the near future. E quindi che possa questa conoscenza del rapido sorgere e svanire degli oggetti possa essere l'ispirazione, e che possa portarvi a sperimentare la pace del Nibbana in questo ritiro o in un ritiro futuro. And this is it. Ah.